Quest'estate abbiamo fatto questa indagine con Ipsos, in collaborazione con Ipsos, dove abbiamo rilevato la percezione e l'esperienza di un campione di circa 800 adolescenti in Italia. È un campione statisticamente rilevante, quindi riesce a restituirci anche una fotografia abbastanza precisa di quello che effettivamente i giovani oggi pensano e vivono rispetto al tema della violenza e degli stereotipi di genere. Ci sono dati che emergono, che sono anche un po' inquietanti, che ricalcano un po' degli stereotipi patriarcali. Assolutamente. La premessa è che sicuramente le giovani generazioni sono più avanti rispetto a quelle dei loro genitori, quindi dei passi in avanti si stanno sicuramente facendo. Ma anche dall'indagine emerge come comunque la cultura patriarcale ferme ancora fortemente le nostre vite. Per esempio, 4 su 5 delle persone intervistate sono convinte che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole, così come un terzo crede che molte persone si identificano come non binarie, gender fluido, transgender, perché è la moda del momento. E quindi vediamo come comunque tutta una serie anche di stereotipi, di preconcetti continuano a vivere assolutamente anche nelle giovani generazioni. C'è anche qualche problema, un 20% di persone intervistate che sul tema del consenso, cioè capire che ad esempio toccare le parti intime senza consenso appunto è considerato violenza. Assolutamente, anche questo è un tema, tra l'altro anche questo viene confermato dalla nostra esperienza oramai pluriennale in progetti di educazione alle differenze. Se ragazze e ragazzi riescono a riconoscere comunque quelle che sono le forme più eclatanti, più evidenti della violenza, la violenza fisica, la violenza sessuale, fanno molta più fatica a riconoscere quelle forme più sottili e più nascoste. Oltre per esempio al dato che citavi tu, nella nostra esperienza molto spesso è assolutamente accettato che il ragazzo controlli il cellulare alla ragazza e viceversa, devo dire. Però ovviamente questo ci fa capire che è ancora molto presente anche quell'idea dell'amore romantico per cui se è geloso mi ama, che poi questi sono tutta una serie anche di stereotipi di cui la violenza si nutre e vive quotidianamente. Anche in seguito a fatti di cronaca quest'estate il ministro Giuseppe Valditara ha proposto di introdurre l'educazione sessuale nelle scuole superiori. Voi dite che però non basta. Non basta, ma soprattutto anche dobbiamo interrogarci su che tipo di educazione sessuale vogliamo. Noi come Action Aid siamo fortemente convinti che l'educazione sessuale non debba limitarsi a trattare gli aspetti teologici, ma veramente anche affrontare quelli che sono gli aspetti relazionali e affettivi della sessualità. Questo comunque non è abbastanza. Noi chiediamo che ci siano programmi strutturali nelle scuole di prevenzione e contrasto della violenza. Chiediamo che il corpo docente e il personale scolastico vengano formati al riguardo per poter essere delle vere e proprie figure anche di riferimento per i ragazzi e per le ragazze. Chiediamo però anche di introdurre delle misure per rendere le scuole più sicure e più accoglienti per tutte, tutti e tutto, come per esempio l'introduzione dei codici antimolestia, delle carriere alias che sono uno strumento fondamentale per garantire il benessere di studentesse e studenti a scuola, così come per esempio dei bagni neutri, dei bagni gender free, ma anche l'introduzione di un supporto psicologico reale, strutturale e di qualità all'interno delle scuole. Action Aid ha all'attivo un progetto che arriva da un programma europeo, Youth for Love. Che cos'è? Allora, Youth for Love, come dicevi tu, oramai è diventato un programma educativo. Nasce da un progetto europeo di cui si è appena conclusa la seconda edizione, ma in questa fase, grazie anche al supporto dell'Istituto dell'8x1000 dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, stiamo implementando il progetto in tante città italiane, proprio con l'obiettivo anche di portare le metodologie che noi abbiamo elaborato in collaborazione con dei partner europei anche in Italia, in più territori possibili in Italia. Il progetto sostanzialmente si compone di diverse fasi. Una prima fase che noi chiamiamo di diagnosi scolastica, che sostanzialmente si compone di focus group, questionari, per andare a fotografare quello che è la realtà nel contesto di intervento e adattare il più possibile i nostri interventi, i nostri percorsi a quelli che possono essere i bisogni specifici che rileviamo. Dopo questa diagnosi passiamo in un certo senso all'intervento vero e proprio, andando a lavorare sia con il corpo docente e con il personale scolastico, sia in parallelo anche con studentesse e studenti. utenti, con un percorso di sensibilizzazione ma anche empowerment rispetto al tema degli stereotipi e della violenza di genere. E questi percorsi normalmente culminano poi anche in una vera e propria attivazione di ragazze e ragazzi, che può svilupparsi in forme diverse, attraverso dei percorsi di educazione tra pari, in cui ragazze e ragazzi elaborano delle attività, dei workshop, dei laboratori per i loro compagni di scuola, oppure anche con dei percorsi di coprogettazione territoriale, in cui grazie a un'analisi del territorio, studentesse e studenti, in collaborazione con l'intera comunità educante di riferimento, elaborano delle soluzioni, delle alternative ai problemi riscontrati all'interno della loro comunità.